poi riscritto. E in un mondo dove tutte le emozioni sono ormai state cantate e pure analizzate, ma io voglio lo stesso parlare del mio amore. E se saranno parole già usate, pensate. Sempre più difficile trovare nuovi accordi quando ormai non c'è più niente da inventare. Dimmi amico mio, fruga dentro i tuoi ricordi, questa musica è davvero originale.